Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. 22:23, siete sempre sintonizzati su Blu Radio Veneto, le nostre frequenze 88.700 e 94.600 MHz in modulazione di frequenza. Questa è la voce di Agostino Spalaora, che eccezionalmente questo mercoledì è in compagnia ovviamente di chi? Di Maurizio Calzavara, perché la sua serata oggi questa... Sono sì, io, beh, mercoledì è la serata rock per Antonio Masia. Io faccio il tuo ospite stasera, come dicevamo all'inizio, e dal folk americano con Max Senzioni adesso si cambia completamente genere con la musica rock, i Dark Age, quale diamo il nostro più cordialissimo benvenuto. Ciao ragazzi. Grazie. Ciao, ciao, buonasera. Grazie. Buonasera caro Dark Age. Seconda puntata, siete arrivati qua con una prima puntata per presentare l'album precedente, adesso arriviamo al secondo album, The Human Sec Parte 2. Finalmente, sì. Direi. Finalmente siamo arrivati finalmente, alla seconda parte. Sì. Erano tanti mesi, c'era tanta voglia di arrivare alla seconda parte. Eh sì, finalmente adesso sappiamo come va a finire la storia. Come va a finire la storia? Dovevo sottolineare stasera una cosa, purtroppo, nel senso, una sfortuna, possiamo dire così. Purtroppo sì. Stasera non suoniamo, per quello abbiamo preso un po' di tempo. Non suoniamo, solo presentiamo il disco, perché il nostro vocalist Davide ha avuto dei problemi con un dente, possiamo dire così? Sì, diciamo che lui è ancora una persona così giovane, lui ha appena finito lo sviluppo. Esattamente, appena finito lo sviluppo, non so cosa. E quindi i denti del giudizio, sai, quelle qua si fanno un po' sentire. È vero Davide? Sì. Ciao, ciao caro. Davide. Oh, come stai a proposito? Insomma, stavo meglio un po' di tempo fa. Ti credo. Allora, facciamo i nomi innanzitutto, che non li abbiamo ancora fatti. Allora, Simone Calciolari alla chitarra. È qui davanti, eccolo qua. Angela Busato alle tastiere. Sì. Massimiliano Perboni al basso. Che non c'è. Che non c'è. Carlo Busato alla batteria. Sì. E c'è appunto Davide Cagnata, che è la voce, che però è a casa. Sono qui. lo so, per un cantante rock, ma un cantante come Davide, che è l'espressione della voce, della forza. Purtroppo è così, Davide. Devi stare in poltrona adesso, c'è poco da fare. O no? No, Dio, spero tanto di no. No, in questo momento sei in poltrona, questo voglio dire. Sì, beh, sì, adesso purtroppo sì. Cose che capitano. In ogni caso è importante la tua voce, è importante il tuo squillo, è importante il tuo liaison per parlare di questa nuova opera. Parte seconda, finalmente, mi diceva Simone, finalmente siamo arrivati alla seconda parte. Sì, che poi è quella conclusiva. Che è la parte conclusiva. Con un finale molto bello, io ho sentito bene l'album, c'è un finale lunghissimo, un 12, un 13 minuti che conclude, perché nelle sì, band di questo tipo, dimmi Davide. I miei musicisti, appunto ho detto loro che avevo bisogno di un pezzo lungo per finire belli, perché c'era insomma, una specie di morale, no? Certo. Tutte le storie, i personaggi, ognuno parlava e dava la sua versione. E quindi insomma ho chiesto questa cosa, però insomma mi hanno accontentato, sono stati gentili. Ti hanno accontentato. Adesso mi dici che ti abbiamo accontentato, visto che siamo a distanza, però insomma le tue pretese erano un pochino, dai. Però aggredisci sempre, tu aggredivi già nel primo disco e anche nel secondo disco non ti tiri mica indietro, aggredisci, però hai lasciato una parte del finale che mi ricordava leggermente qualcosa di Tony Banks e i grandi Genesis, qualcosina girava, qua c'è Angela davanti, potrebbe dire qualcosina, ma in senso positivo del termine. Sai, anche un altro gruppo, un gruppo tedesco-inglese mi ricordava, dopo te lo dico, anche quella aveva dei riferimenti, soprattutto c'è la vostra musica, al di là dei riferimenti, posso fare tanti. C'è la vostra musica, il vostro. Dobbiamo sottolineare, cari ascoltatori, è tutta musica inedita, quello importante, costruita da voi, fatta da voi. È una cosa molto positiva, importante, con questa messe di tribute band che vengono e vanno. Ma dobbiamo proprio tutte le volte toccare questo argomento, Maurizio, per favore. Quindi, seconda parte, Davide, è stato difficile elaborare questo testo, questo canovaccio per la seconda parte? No, io non penso che sia stato difficile, anche perché ho tratto ispirazione dalle cose che Simone e Angela mi hanno proposto, che hanno fatto, e devo dire che insomma, è stato molto bello ispirarsi a questi momenti, come per esempio la scena del banchetto, quindi, insomma, quindi è uno stimolo per la fantasia, poi la fantasia si scatena, insomma, si spera che salti fuori qualcosa di buono, insomma. Ma sicuramente, qualcosa di buono, anche la gente, cioè io ho letto le recensioni, si sono mosse positivamente, il disco piace al di là di tutto, chiaramente. Facciamola così Davide, così ti facciamo riposare un poco. Sentiamo la traccia numero uno, vero Agostino? Cosa sì, dici? Sì. Così iniziamo deciso, questa cavalcata, abbiamo tempo fino a mezzanotte, Davide. Abbiamo deciso tanto di fare tutta la scaletta, nel senso partendo dalla prima all'ultima. Così dopo elaboriamo musicalmente, poi faccio qualche domanda a Simone, qui Davide poi interviene, a Simone, ad Angela e a quel nostro batterista. Quindi... Davide, tu ci fai compagnia, vero? Sempre o no? Ce la fai, sì. Bene. Okay. Resta lì, non chiudere nessuna linea, resta lì, mi raccomando. Wave, Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Bene Davide, mi senti? Sì, sì. Ecco, abbiamo iniziato la cavalcata nella seconda parte. Parlavo con Angela, parlavo con Simone e anche con Carlo. E questo era proprio la fotografia della musica vostra. Cioè, ha tante colorazioni, ha tanti momenti, dal momento più potente al momento più melodico, e il melodico, il momento melodico, la tua voce melodiosa spinta dalle tastiere di Angela, caro Davide. Certamente. Un po' impressionista, mi diceva Angela, perché tu hai detto, parlavi con, all'epoca con Angela, sì, mi suona un momento, mi sembra molto impressionista, un rallentamento della foga, la quiete dopo la tempesta, possiamo dire così. Sì, beh, sì, sono dei momenti diversi proprio nella storia, no? La storia, ricordiamo un momento a spezzoni, Davide, la storia, dove è ambientato, in Mesopotamia? Sì, è ambientata nell'antica Siria, no? E qui chiaramente siamo a metà, perché è l'inizio della seconda parte. Certo. E questa canzone, c'è una scena che è nel palazzo del re, la mattina è l'alba, e il Re si alza da solo ed è molto tormentato perché viene continuamente così disturbato dalle voci che parlano di un tradimento di sua moglie con questo giovane principe, e quindi è molto preso e molto, insomma, non sa cosa fare. Ci sono momenti di rabbia, appunto, come all'inizio, poi tra l'altro c'è un consigliere che gli così apposta anche, insomma, lo cerca di spingerlo a vendicarsi, insomma, a reagire con violenza. Lui ha un momento in cui è un momento, diciamo, quello più lento, tanto per capirsi, è quello dove lui pensa alla vita che ha trascorso con la moglie, è stata molto felice, e poi invece i cortigiani che nel frattempo entrano nella sala del trono, è così che, insomma, lo spingono anche loro a prendere una decisione, insomma, in qualche modo a reagire a questa situazione. Poi una cosa interessante che abbiamo già notato la scorsa volta che siete venuti qua, ma dobbiamo ribadirlo, che la musica è nata con i personaggi agiscono con la musica, è un'interazione totale, continua, con la chitarra, con la batteria, con le tastiere, con il basso, con la tua voce, che è uno strumento la voce in questo caso, assolutamente, David. Sì, per me, io ho sempre pensato che la voce dovrebbe avere un ruolo paragonabile a quello degli strumenti all'interno della musica, quindi non essere preponderante, non essere invadente, ma avere come un suo spartito in un certo senso, no? Quindi una parte che è quella che poi deve seguire, e per lasciare giusto spazio poi agli strumenti. Non ho mai amato i cantanti che cantano dall'inizio alla fine di ogni pezzo, insomma, li trovo assolutamente fuori. Sì, perché la tua voce è al centro, non è fuori, è al centro degli altri strumenti, non è, cioè, chiaramente la tua voce dà l'input alle altre, o viceversa, la tastiera o la chitarra o la batteria sono collegati, c'è un'unione fra di voi, non è, c'è uno scoordinamento, cioè la voce è da una parte, gli strumenti dall'altra, no, come giustamente tu hai detto, deve essere un unicum, un solo modo di fare musica, secondo me. Sì, per me è molto importante, anche, insomma, per gli altri della band, insomma, che anche loro siano d'accordo su questa cosa. Sì, sicuramente, adesso parliamo anche loro. Sì, sì, con la loro. Certamente, guarda. Quello perché, tra l'altro, così io canto anche di meno, no? Quindi... Ah, ecco, questo. Per quello. Forse ti puoi concedere qualche momento in più di pausa sul palco, magari sì. Defilarti per le tue cose, così. Beh, grazie. Davide, ci segnalalo se puoi un po' alzare la voce quando parli. Ah, sì, ok, d'accordo. Ce la fai, Davide, sì. Se puoi. No, assolutamente. Perché, cari ascoltatori, un rocker che viene frenato, un rocker frenato è una cosa un po' innaturale, possiamo dire, Davide, per te stasera, è cose che possono capitare, però vedi, in ogni caso, anche se hai quello che hai avuto, vuoi dare il tuo contributo stasera, è una cosa positiva, noi siamo molto onorati di questo, cioè ti sei fatta forza e rispondi alle nostre domande. Sì, bastardamente. Bastardamente come? No, bastardamente dico io, Davide, finché ti regge l'anestesia, ecco. Te lo ricordo. Il nostro batterista non favella, assolutamente, no, non dice niente. Dico poco. Dici. Perché devi... No, il batterista deve dire qualcosa qualche volta. Beh, ma tu ti sei trovato bene nella band, assolutamente. Sì, certo. No, comunque se mi fanno delle domande magari penso, ecco, di rispondere. Visto Davide, ti do qualche minuto di sosta, così Simone dà un piccolo storia, una piccola veloce storia della band. Ne abbiamo già parlato la scorsa volta, ma chi i distratti ascoltatori non si possono ricordare, adesso Simone dà un veloce excursus, che è una band che ha una certa età, vero Simone? No, dal punto di vista anagrafico, sì, è una certa età, okay. È da tempo che gira. No, ma è che è anagrafico, perché effettivamente quasi 30 anni da quello che era il primo vagito musicale. Il primo vagito, sì, esattamente, perché chiaramente tutti adolescenti all'epoca, 14-15 anni, così adesso sapete quanti anni, o io. E beh, cosa, insomma, c'è niente di male, quelli. Musicalmente gli anni sono, non contano. No, no, ma assolutamente. Assolutamente. Anche Agostino ne ha tanti, però. Pensa ai tuoi. No, ma Agostino mi sta simpatico. Ecco, perché, grazie. No, perché già è pettinato come me, quindi cioè, siamo diversamente pettinati. Agostino, diversamente pettinati, sì, effettivamente. Faremo una fotografia poi. Facciamo molta fatica. Okay. Mamma mia, vabbè. No, comunque, ecco, sì, in effetti è nata su quello che era un po' da noi ragazzini così quattordicenni, nati in quella metà fine anni 60, che con gli anni 80 hanno trovato così nuovi sbocchi musicali con la new wave of British heavy metal, eccetera eccetera, e per cui si sono sentiti tutti rockettari, scoprendo poi quelli che erano nel passato l'hard rock classico, quindi le Zeppelin, fino ad arrivare a Cream, fino ad arrivare, certo, poi a, quindi chiaramente, Cream, beh, insomma, ascoltatori, avete sentito, ha parlato di Cream, quindi la chitarra, la chitarra, beh, insomma, dai, hanno avuto un duo chitarristico, penso, fantastico, direi che, unico. È unico, in effetti. E sì, quindi Deep Purple, dimenticare Deep Purple, mai, certo, assolutamente, anzi, riporto ancora molto molto positivamente nel cuore. E vabbè, lì avevamo cominciato un po' così. Quindi il primo nucleo è nato, vabbè, nella metà degli anni 80 circa, e si è concretizzato poi fine anni 80, primi 90, fino ad arrivare a una formazione abbastanza stabile, tanto da riuscire a registrare un primo album all'epoca, che è uscito ufficialmente nel 91, e vabbè, copie poche, distribuite, quelle giuste, non si sa, sparite subito, però, e quindi va bene. Però è rimasto qualcosa. È rimasto qualcosina, sì, tanto da farci entrare, perché in effetti l'Italia, all'epoca, chi riusciva ad avere un contratto discografico o comunque a riuscire a stampare, a registrare un disco quantomeno, noi eravamo usciti su vinile, quindi certo, addirittura. Che bello. C'erano già i CD, però... Ecco, adesso io dico, quanta che nostalgia. Bravo, adesso io dico che bello, il vinile. Una volta dicevo, ma no, accidenti, siamo proprio veramente l'ultima ruota del carro, perché ci fanno ancora uscire su vinile. Non, vabbè, è proprio così. Non era proprio così. Esattamente, sì. Niente, da lì è rimasto qualche traccia, perché in effetti, come dicevo, l'Italia è sempre rimasta un po' il fanalino di coda del rock, dell'hard rock a livello europeo. Molto meglio di noi, fra virgolette, ma anche perché tanti si sono riusciti a vendere meglio di noi, sono stati i tedeschi, sono stati certamente i francesi stessi, come no, il Belgio, eccetera, i paesi del nord. Comunque adesso c'è un fiorire incredibile, cioè, dei paesi dell'est europeo, dell'est, sì, e dell'estremo nord, l'estremo nord, hai ragione, si suona bene nell'estremo nord, sì, molto, come molto. Mai Simone si suona così bene nell'estremo nord? Qualcuno ha detto perché certe sonorità non li ha, sono sconosciute per loro, cominciano a venire fuori dalla cosiddetta cortina di ferro. No, ma io penso perché comunque è una questione di cultura, semplicemente. Questione di cultura. Da noi la musica per i ragazzi è relegata a quello che è l'insegnamento del flauto dolce, certo, probabilmente, almeno dai miei ricordi, alle medie, un'ora alla settimana. Esatto, e poi molto pretendiamo, riduttivo. E poi li pretendiamo che un paese con una cultura musicale come l'Italia possa addirittura progredire, o quantomeno mantenere le tradizioni. Non ci riuscirà mai. No, esattamente. Se i presupposti sono questi, insegniamo la musica per cortesia a scuola. Nei paesi dell'est, del nord Europa, la musica del centro Europa, perché viene considerata una materia di secondo livello. Beh, certamente sì, ma addirittura nei paesi tipo Finlandia, Svezia, anche quant'altro, insegnano a suonare uno strumento, sì, sempre quello minimo, sanno studiare due strumenti, cioè si fanno lo studio di due strumenti, per cui poi escono anche, certo, dei talenti veramente favolosi. Vabbè, insomma, il discorso che si amplia sempre di più. D'accordo, smettiamo, altrimenti. Esattamente. E adesso sentiamo un altro pezzo, la traccia seconda, sempre, sì, dal disco. Che dura pochissimo, poi, tra l'altro. Dunque, quanto dura? 57 secondi. Ma allora facciamo una cosa: uniamola alla terza. Esattamente. La, perché andare, se è un pro il preludio alla terza. Li presentiamo prima, però, i due titoli. Prego. Si chiama House Divided, è il, diciamo, il pezzo di collegamento strumentale tra Kurt. Che è scritto a te, probabilmente. No, dimmi. Sì, dimmi. No, posso chiamare Davide? Certo, Davide, ci sei? Telefono. Ecco, è sempre presente. Perché House Divided? Allora, sarebbe un gioco di parole, però queste cose non dovrei dire. No, allora, letteralmente vuol dire che è una casa divisa, no? Come possono essere marito e moglie, che ormai, insomma, hanno dei problemi di contrasto, però è anche un gioco di parole, perché House Divided era il modo di chiamare la guerra secessione, di guerra di secessione in America, e anche qui in un certo senso è uno scontro quello che si sta profilando, no, all'interno di questo contesto che è il palazzo, di questa comunità, insomma, che è all'interno del palazzo. Quindi l'ho pensata un po' così, però insomma è chiaro che indica questo contrasto, questa tensione che c'è tra il re, la regina e il principe, insomma, è quello poi che ne conseguirà. E la secondo pezzo? Il secondo pezzo, Sea of Pain, che significa mare di dolore, parla qui la regina principalmente a parlare, e lascio spiegare a Davide anche questo. D'altronde sei tu, Davide, l'autore. Sei l'autore del canovaccio, sei te, Davide, quindi giustamente devi spiegare. Il titolo è preso proprio da, forse, insomma, quello che a me sembrava il passaggio più significativo del testo, e si riferisce soprattutto, insomma, il testo abbastanza lungo, al fatto che lei si trova in una situazione in cui si rende conto che qualsiasi cosa faccia è sbagliato, ed è forse quello che capita qualche volta anche a noi, no? Uh-huh. Per cui qualsiasi scelta che facciamo comporta delle conseguenze negative, e anche il fatto che molto spesso, e soprattutto per una donna, questo, vabbè, qui il discorso potrebbe allargarsi, molto spesso non può essere se stessa, perché il contesto nel quale vive, quindi le persone attorno, così non accettano certe cose, insomma, certe scelte o certe posizioni. Benissimo. Ok, benissimo. Mi sono spiegato. Certo, no, si è capito perfettamente. Adesso sentiamo i due pezzi, allora. Flame inside the passion. Yeah. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. 23 un minuto, sempre in diretta con Blu Radio Veneto. Questa è la voce di Agostino, ma soprattutto con Maurizio Calzavalla, che sta cercando, insomma, di regalare, cercando di intromettermi nella storia, nella storia di questo disco, del nuovo disco dei Dark Ages. Abbiamo al telefono Davide Cagnata, che purtroppo c'è scritto voce, ma la voce questa sera è un po' scarsa, vero Davide? Sì. Ma però ce la fai a stare qui con noi. Adesso Angela riepiloga i due titoli. Sì, House Divided e Sea of Pain. E volevo approfittare per ringraziare Lisi Stefanoni, che ha registrato il flauto del secondo disco, che è una cantante del gruppo cremonese degli Evenoir, che sono passati, che sono qui, passati di che qua, che sono venuti anche ospiti qui. E, infatti, a differenza del primo disco, anche il primo comunque è stato suonato, il flauto è stato scelto come strumento vero, perché comunque la tastiera sì, può rende, imitarlo, però un strumento a fiato è un'altra cosa, molto diverso. Beh, soprattutto la tastiera costa poco, perché la suoni tu è quello. Vedo, questa è un'interpretazione giusta. Poi, caro Davide, Simone mi diceva una cosa molto bella: quando fate i concerti, quando fate in qualsiasi locale, date agli spettatori, quelli che assistono, dei libretti per poter capire la storia. E quindi si ispira a un concetto che si usava nell'Ottocento con i libretti, nel senso positivo del termine, Davide, perché la gente possa capire la storia, possa andare dentro la storia, mentre voi la spiegate musicalmente e vocalmente. Sì, esattamente. Cioè, l'idea era proprio quella. Cioè, visto che abbiamo le nostre intenzioni, scritto un'opera rock. Assolutamente un'opera rock. Che si rifà proprio anche per certe parti a certi canoni del dramma italiano, che esattamente dei nostri vanti, insomma, in tutto il mondo, no? Esattamente. E quindi ci sono chiaramente la musica un po' diversa, però i personaggi, alcune situazioni, eccetera, insomma, meno male, insomma, richiamano quelle del melodramma italiano dell'Ottocento. Quindi colori forti, colori tenui, Davide. Certo, insomma, adesso per carità, io non userei mai, no, chiaramente no, a questi, insomma, a questi autori che sono sublimi, però insomma nel nostro piccolo, però ci è sembrato, anche perché poi insomma è una cosa, oserei dire, un po' nuova, insomma. Certo, meno, certo, assolutamente così, sì. Mi sembra che sia scontata e quindi mi è sembrato giusto proprio dare la possibilità agli spettatori di seguire i testi, eccetera, così come si fa a teatro, insomma, così detto. No? Chiaramente sì, è proprio una cosa giusta quello che hai detto. Quindi prima si era partiti con proprio il testo, ma poi ho aggiunto anche un qualche riga in italiano che spiegasse la situazione, cosa succede, proprio per fare, creare un filo rosso che unisse... Sì. Tutti i brani, che possa, esattamente, un filo rosso che unisca tutti i brani e che possa coinvolgere chi vi ascolta. Una cosa fondamentale della vostra musica è le diverse tonalità, le diverse colorazioni, non soltanto della tua voce più forte e meno forte a seconda del testo, ma le diverse colorazioni che le tastiere o la chitarra di Simone o la batteria danno, e il basso danno, alla vostra musica. Ci sono tante stop and go, visto che il batterista non parla, ma lo facciamo parlare, perché è una caratteristica dei stop and go, è una caratteristica di una band che fa la vostra musica, questo fermare e ripartire, dare uno scossone e poi ritornare, caro batterista. Sì. Allora, diciamo che io ho dovuto adattarmi ai brani. Nonché Carlo, chiaramente. Dimmi. Io arrivo a metà lavoro fatto praticamente. Mi chiama mia sorella e mi dice: guarda, abbiamo qualche pezzettino così per iniziare un brano nuovo. Bene. E lì iniziamo a provarlo. Io me lo porto a casa, te lo studi? Me lo studio, provo dei tempi, magari dei passaggi, qualche stacco, e propongo. E le cose vengono insieme. Io comunque mi adeguo ai brani composti da loro. Da Simone e da Davide. Sì, sì, certamente. Dopo, la batteria, essendo uno strumento ritmico, è un po' più difficile dare un colorare diversamente, dare diversi, mi si dice, colori al brano. faccio quello che posso. E no, no, fai bene, lo fai bene. Quando stasera non c'è il bassista, che salutiamo chiaramente, però sì, salutiamo, salutiamo il miss. Esattamente, la sezione ritmica, basso e batteria. Però in una band come la vostra c'è anche la chitarra di Simone che echeggia. Lui ha parlato di Cream prima, lui è mamma, ami Cream, ma non è che ami Cream, ami il suono, il modo di impostare, sì, forse, esatto, di questo. È quello che ami, al di là dei grandi maestri. Sì, beh, quello certamente, però ecco un po', mi rilascio al discorso di Carlo. Sì, sì, è un lavoro d'equipe. È un lavoro d'equipe, non c'è il solista, perché... vero e proprio. No, sì, no, quello assolutamente. Ecco, una cosa importante è infatti questo, che al di là ed è innegabile che, diciamo così, adesso non per incensare a tutti Angela i costi, qui Angela, davanti, che qui però effettivamente il lavoro grosso, diciamo la verità, lo fa lei. Sì, di unire, di forse di... come un po' un collante. È un collante, certo, un collante. Allora, un collante. Allora comunque... io prima... dimmi. No, no, vai Angela, scusami. No, comunque, tornando al discorso di basso e batteria, nei nostri brani ci sono molte parti, sia nella parte 1 che nella parte 2, che sono solo basso, batteria e voce. È una caratteristica un po'... E quindi ci sono certe parti che sono proprio ritmiche, proprio nel senso vero del termine. Quindi Carlo ha fatto un lavoro non da poco. Sì, sì. In certi punti il protagonista è proprio la sezione ritmica, basso e batteria, che accompagnano Davide appunto nei momenti più forse aggressivi. Più aggressivi, più di forza della storia, chiaramente. Poi sì, diciamo il mio lavoro, come diceva Simone, in certi punti appunto è magari protagonista, però in certi punti agisce, diciamo, in secondo piano, magari per appunto per unire alcune parti, oddio, magari che non risaltano principalmente all'orecchio, però se mancano magari si sente. Ma più che secondo piano, più che secondo piano, direi, io prima ho detto scioccamente, sì, forse l'arrangiamento costa poco Angela, nel senso, come tastiere, così, però in effetti ci dobbiamo pensare che sotto, se prestiamo l'orecchio bene all'ascolto, c'è proprio un'orchestrazione vera e propria, c'è un lavoro, c'è un lavoro, sì, sì, lavoro, ma di armonia, esatto, di arrangiamento, ma proprio con una sezione archi. E la parte seconda è stato un lavoro leggermente diverso dalla parte prima, qui metto in causa anche Davide, o lavoro, cioè il canovaccio l'ha scritto Davide, sì, ma musicalmente è stato un lavoro più complesso o già c'era la strada segnata? Allora, è stato tutto abbastanza naturale, comunque non è una cosa premeditata. Sì, in base, come appunto hai detto anche prima, che la storia è iniziata sì, esattamente, con la parte prima e continua con la parte seconda, quindi i personaggi e la vicenda comunque hanno richiamato, cioè la musica che doveva creare questa scena, agivano i personaggi, dove agiscono i personaggi, e in certi punti anche la musica ha modificato alcune cose della storia, diciamo, durante la lavorazione. Poi la seconda parte, come c'è stata già fatta una domanda simile durante un'intervista, che risulta un po' più drammatica, sì, rispetto alla prima. Esattamente. Perché è proprio la storia che richiede, siccome la storia ha un finale tragico, richiede proprio più cupezza, un po' più, diciamo, di tensione. Il dramma e la tensione di questa conclusione. Quindi è opera di Davide questo dramma, questa tensione, sì, però sì, Davide ha fatto il canovaccio. È colpa sua. È colpa sua, è sempre colpa tua, Davide, in ogni caso. Bene, passiamo a un altro pezzo adesso, così ci allarghiamo sempre di più. La traccia numero 4, è vero? Sì, io devo portare anche dei saluti comunque. Sì, vai. Lavoro da parte di Gianluca Merlini. Sì, infatti volevamo salutare. Lo salutiamo Gianluca, lui è sempre presente. Lui è sempre presente. Lo volevamo salutare, ma ci ha anticipato lui questa volta. Benissimo. Caro Gianluca, ciao in ogni caso, ti salutiamo caramente. Magari potevamo invitare anche lui stasera. Esatto, ma la prossima volta ci saranno gli strumenti e Davide in grande forma, ci sarà posto anche Gianluca. Certo, non c'è problema. Certamente. La traccia numero 4, come si intitola? Si intitola Banquet, è il banchetto. Il banchetto, molto interessante. Il banchetto, sì, è diciamo la parte un po' centrale, dove ci sono molti... La traccia numero 4 sono 9, quindi abbastanza centrale. Sì, della parte 2, ci sono molti personaggi che agiscono, perché durante un banchetto proprio nella colori, sala, sì, è proprio una festa in questa corte. C'è il maestro di cerimonie, c'è il poeta, c'è il giullare di corte, insomma c'è il re, molti che agiscono, e quindi è il brano, diciamo, più più colorato della... è più complesso anche in, per certi sensi, anche se poi sì, la fine è molto complessa, ma perché doveva essere così, doveva essere la fine. Sì, poi ha questo clima un po', sembra un po' festoso, allegro. Davide, scusami, ci siamo dimenticati qualche personaggio per caso? Oddio, sì, c'è maestro di cerimonia, adesso forse non mi ricordo quelli che ha detto. No, ma ce n'è, quando il brano è nato ce n'erano anche molti di più, però dopo... Poi hai deciso di tagliarne un po'. Te l'ho chiesto apposta. Bene, sentiamo io. Sì, quindi dimmi Davide. Dimmi. Grossa, io mi sono ispirato mi sono ispirato un po' a Fellini. Ok, ho capito. E quindi a qualcosina dei film di Fellini. Bene, adesso sentiamo allora il banchetto. The powerful king of Babylon. The acid dreadful ruler. The princess from Kofla. Sargon of Akkad. As you're told, don't be bold. When you're cold, strike your blow. Dance around and swirl as if there's no tomorrow. So forget the world with its pain and sorrow. SMS 346 2320 033. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. Rock Wave Live. Bene, stiamo ascoltando, stiamo parlando con i Dark Age. L'album è Tema parte seconda, non parte prima, parte seconda. Mi diceva Simone che la parte seconda ha smosso di più che la parte prima, la gente è andata a sentire, a vedere, a trovare, a cercare la parte prima. Sì, è così, sì, in effetti, beh, è chiaro che poi la formazione, rilacciandomi un po' al discorso della storia così della band, che ha visto, diciamo, nei suoi cambiamenti principali, certo, l'ingresso sicuramente di Davide, che ha sostituito quella che era una voce femminile dell'epoca. E quindi ha dato un impulso decisamente molto diverso, e poi l'ingresso sicuramente nel 2008 di Angela e Carlo. Carlo, che hanno dato un altro impulso. Un altro impulso, e questa, a onore del vero, la formazione più duratura così della storia. Speriamo duri per sempre. No, no, ma lo sarà. Lo sarà, lo sarà così, assolutamente. Sì, sicuramente, sicuramente. Ecco, niente, sì, effettivamente un po' per il fatto di aver così ripreso l'attività della musica originale, continuato, un po' riproposto, eccetera, eccetera, un po' per la lentezza di quanti hanno scoperto la prima parte prima. Siamo arrivati alla parte seconda, chi non ci aveva sentiti ha voluto andato subito prima, a pescare, per cui ha fatto un po' prima da traino a ripescare, certo, la prima, per cui ecco, è stato molto positivo in questo senso. Allora, adesso velocemente Davide ci descrive la fatica di fare questi personaggi nel banchetto, queste voci diverse, questi personaggi diversi. Ma guarda, la fatica, no, dico bella, la passione, possiamo dire, più che fatica. Sì, come ti dicevo, io mi sono ispirato un po' a Vee, nel senso che come in parecchi film ci sono scene d'insieme in cui ci sono persone che passano anche davanti alla camera da presa e certo, ognuno dice la propria frase. E io ho, insomma, ho preso in mano il brano e ho cercato di creare un personaggio per ogni tipo di insomma, sezione musicale, no? E quindi è tutto un accavallarsi di interventi dal tenore molto diverso, perché c'è il poeta un po' hippie, c'è il consigliere che sempre che instilla il dubbio, c'è il re che parla, c'è il maestro di cerimonie che invece ha un, chiaramente, insomma, parla in modo così stentoreo, no? Che annuncia prima gli ospiti che entrano, poi insomma presenta un po' l'occasione, insomma, e poi gli altri, quindi è stato bello, beh, insomma, è stato molto bello per me. E un'altra cosa da sottolineare, tu sei stato molto bravo e anche hai dato proprio l'ispirazione ai famosi cambi di colorazione musicale, cioè la voce dava l'input, stavolta la voce dava l'input ad Angela, a Simone e a Carlo e al bassista, chiaramente, per dare una propria propensione musicale. E il banchetto, io per citare i PFM, abbiamo prima il banchetto, famoso banchetto, sì, della PFM, e tutti quei colori il banchetto dà, gestisce, favorisce i colori musicali. E sì, voi stasera, bene, stasera nel pezzo ne avete date parecchi, purtroppo stasera non li date perché musicalmente non è possibile, però l'idea è sempre quella, sì, e l'idea del teatro, aspettiamo un'altra volta, però questo è chiaro, l'idea della presentazione. Il banchetto è proprio la sintomatica della presentazione al pubblico del banchetto, quindi la presentazione delle diverse sequenze, le diverse vocalità di Davide accompagnate dagli strumenti. Bene, questa abbiamo finito la prima parte praticamente del disco, siamo alla quarta serie, quarta traccia. Adesso andiamo alla quinta traccia. Che... anche questo dura pochissimo, volete. E lo facciamo quinta e sesta. Allora adesso sesta. Angela, da brava speaker, presenta le due tracce, quinta e sesta. Vortex è la traccia di collegamento strumentale. Sempre scritta da te questa? O sì. Da te e dagli altri? No, questa da me perché c'è soltanto l'organo. È l'organo quindi... sulla tastiera, perfetto. E, che fa da legame con Chasm, che è la traccia successiva, e che significa baratro principalmente. Ecco, già dicendo baratro abbiamo capito, sì, da una certa colorazione alla voce di Davide, ma poi quando sentiamo il pezzo poi interroghiamo Davide, che lui sempre spiega bene, principalmente, esplica, sì. Esattamente, spiega, la gente deve capire, certo. Deve entrare certo. Dentro. Nel profondo. Infatti la difficoltà a volte è far proprio capire il fatto anche della storia, perché magari un ascoltatore, cioè non insistendo sul fatto, magari un ascoltatore subito di primo impatto fa fatica a vedere collegamento proprio tra i brani. Esatto, stasera che abbiamo, purtroppo non abbiamo gli studenti, abbiamo più tempo per spiegare la storia, e questa è una cosa positiva. Ascoltiamo. Ok. Thank you. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Allora, abbiamo sentito il collegamento, la liaison, questo organo da chiesa, molto, cioè da un certo senso di baratro, giustamente sì. Di baratro. E poi abbiamo il baratro. E giustamente parlavamo con Simone, caro Davide, tu intervieni poco in questo pezzo, ma lo intervieni velocemente, lasciando lo spazio agli strumenti stavolta. Sì, come ti dicevo, secondo me è giusto così, anche per quello che dal vivo, quando non canto, io, insomma, se il palco me lo permette, tendo a sparire. Tenti a sparire. Stare loro da soli sul palco. Ma c'è, sei sempre là che giri, chiaramente, di sparire. Sì, però così, dal punto di vista... nel senso che mi ritiro. Nel senso sì, che, ti ritiri, che, giusto. Perché mi sembra giusto che la gente, insomma, abbia questi piani diversi anche dal punto di vista visivo, insomma, per quello che è possibile, insomma, chiaramente in base ai locali dove suoniamo, eccetera. E quindi secondo me, anche perché, insomma, è giusto che la voce abbia un suo spazio, e poi c'è un altro motivo, anche oserei dire, perché per noi è importante fare della musica che, se non è orecchiabile, però non rischi di stufare. Ecco, ha detto. E questo molti nostri ascoltatori ci hanno fatto notare, il fatto che ogni volta scoprono particolari nuovi, che per loro è un piacere ascoltare il disco tutto insieme. E io credo che sia importante questo. E qualche volta capita, non nel caso vostro, in altre band che si avvicinano al vostro genere, che si intestardiscono negli assoli, si intestardiscono e riescono a dare, a pesare negli ascoltatori, chi ascolta. Invece la vostra è una musica, è fluido il modo di suonare, è fluido il modo di interpretare, a momenti più cupi, a meno cupi, chiaramente, ma la fluidità è la chiave di volta del progetto. Forse la melodia. È la melodia, perché bene o male, caro Davide, la melodia c'è, non è che non ci sia, è forse nascosta e tirata in certi momenti, ma esiste, è sempre sotto, che viene fuori al momento giusto. Beh, qui comunque io vorrei dire, siamo tutti consapevoli che il risultato deve essere la canzone, per cui non c'è nessuno di noi, ma questo in effetti da sempre, abbiamo trovato questo equilibrio perfetto, si può dire, perlomeno per quello che ci riguarda, che ognuno di noi è al servizio della canzone, al servizio del brano, al servizio di quello che vogliamo dire nel nostro insieme, non singolarmente. Ecco. Singolarmente, vabbè, insomma, ci sono gli spazi per tutti, sì, ma certamente però non sempre deve limitati essere... al servizio della canzone, al servizio, sì, della canzone, al servizio del progetto, del progetto, del progetto, sì. E questo è fondamentale. Sì, esattamente. Il nostro batterista è d'accordo? Sì, certamente. Carlo è d'accordo. dobbiamo sottolineare che il nostro batterista è l'unico che ha la maglietta Dark Age bella visiva, mentre Simone ce l'ha in altra posizione, scritto sulla schiena. Ecco. È un po' difficile per noi i conduttori dare un'occhiata, giusto. Però davanti, e questo, al di là dello scherzo, anche quello, avere la maglietta della band, anche quello è sintomatica di un'unione, al di là di tutto. Sì. Avete un po' di merchandising, allora? Certo, sì, beh, certamente. Magliette, poi? Magliette, polsini, i portachiavi, le toppe, varie cose. Un po' di cose, fa parte anche questo dello spettacolo, non è una cosa buttata così, fa parte del progetto in se stesso, è una cosa positiva. Che brano adesso scegliamo? L'altra traccia, traccia numero 7. Io direi di fare un altro abbinamento. È piccola? Sì. Un minuto e 15. Sì, allora sì, facciamo. Sì, adesso la presenti come sempre, poi Davide spiega com'è il discorso. Sì. Allora, le due tracce. Drift e poi Solution. Solution, ci fermiamo un secondo perché la traccia che abbiamo scelto io è da Alberto Prisco, che salutiamo, il nostro direttore artistico, ci piace molto, Davide. Ci piace molto perché c'è il flauto. Flauto da una certa dimensione romantica, possiamo dire così. La tua voce stavolta è romantica, Davide. Ma ne parliamo quando l'abbiamo sentito, ok? D'accordo. Thank you. my eyes. That's the truth that unveils my disguise. What's the good or the bad I can tell? All is lost and I can't break the spell. If I can understand who am I, it's better to fade in the cold, dark will help me be free from the ghosts that are haunting my dreams. Please be kind, try to understand why I made up my mind and I choose. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Eccoci qua, Davide, siamo arrivati a Sull'Uscio, perché io mi sono ricavato qualche minuto, molti minuti, per parlare del finale, il gran finale. Sull'Uscio è un pezzo romantico, meravigliosamente romantico, a noi è piaciuta molto, ma Sull'Uscio, cioè la soluzione, il testo non è proprio romantico, Davide. Sì, è un testo, c'è una regina che parla e lei trova una soluzione a questo dilemma che la divide tra il marito, tra il re e il principe. Esattamente. E trovandosi al centro di queste forze, lei sceglie semplicemente di morire, insomma, sceglie il suicidio. Mm-hmm. E quindi questa canzone è proprio, insomma, quella che in un certo senso sarebbe... Prepara. Sì, dopo c'è il finale. Il finalone di cui adesso parliamo con tanti colori musicalmente, un pezzo complesso dove dai tutta la tua forza e musicalmente viene fuori i Dark Age, proprio l'emblema di Dark Age, con tutte le diverse colorazioni. Ma perché questo romantico, questo andare romantico in un testo non romantico, questo uso del flauto, perché? Chi ha avuto l'idea di metterlo? Ma penso che sia l'idea del flauto sia stata di Angela, credo. E tu, Angela, l'idea? Sì, a me è uno strumento che mi è sempre piaciuto tantissimo. Dopo il pianoforte e il flauto è quello che mi è piaciuto di più, però non lo so suonare, peccato. Quindi in realtà hai messo il flauto, cioè sì, amavi mi piace molto il suono. Moltissimo e si presta proprio a perfettamente si presta perfettamente a introdurre il gran finale. Sì. Come hai pensato di costruire un finale da suicidio molto duro, molto potente, tremendo, drammatico? Ma io, il problema è questo: ci sono questi tre uomini che sono il re, il principe e il signore delle tenebre, che meno male hanno cercato di costringere questa donna, che è l'unica donna nella storia, ad essere qualcosa che lei non è, no? e a fare delle cose che lei non vuole fare. E quindi, pur essendo apparentemente la regina che subisce le forze oscure, no, di questa situazione, in effetti è lei che vince, perché lascia questi tre uomini con un grande rammarico di non aver capito, di non aver agito nel modo migliore, e quindi nel finale abbiamo queste tre persone, questi tre maschi uomini che parlano della loro disdetta, insomma, dello scorno, se vogliamo, anche, insomma, il fatto che siano restati, e tutti e tre restano con dei grossi rimorsi per aver sostanzialmente sbagliato, perché sì, insomma, si è creata questa situazione, insomma, questa, e quindi insomma è un morale anche femminista, sì, indubbiamente. E musicalmente è un pezzo molto complesso, ma la complessità è una caratteristica di un finale e deve essere così. I Dark Age l'hanno pensato così, Davide, oltre al canovaccio, che è fondamentale, ma la musica in questo caso spinge il canovaccio, secondo me. Sì, indubbiamente il brano è il più complesso, ci sono tante cose. Secondo me doveva essere ancora più lungo. Dimmi, non ho capito. No, doveva essere più lungo? Sì, la prima parte, io l'avrei raddoppiata la prima parte. Quindi una ventina di minuti circa, 12, no, no, 12. No, no, dai, no, sto scherzando, minuto, però minuto, ma 13 minuti è sufficiente per dare una giusta impronta alla storia. La storia finisce così, in modo drammatico, sì, certo. E la colorazione è bella, è positiva, tutti gli strumenti vengono fuori alla grande. Qui non c'è un discorso di solista, c'è un discorso di compattare tutto quanto, però sentendo veramente la forza dello strumento, dei musicisti che suonano, e la forza della voce di Davide, chiaramente, che è uno strumento, ripetiamo. Forse è stato un po' il brano forse più complesso da rendere, anche perché principalmente quando ci siamo messi a fare l'ultimo brano, la paura era quella di non riuscire proprio a rendere proprio questa fine, perché comunque già la parte 1 avrebbe avuto la parte 2 come continuo, però certo, ha avuto un finale il disco 1, nel sì, senso che già ha avuto un brano finale che aveva un certo peso. E quindi bisognava riuscire a rendere un finale per due dischi, e non è poco, quindi bisognava fare un finale, e quindi ci abbiamo pensato molto come dividere le parti, anche come, appunto, come rendere proprio il finale dell'opera. Certo, non è il finale, finale solo, dell'opera, solo è di un disco, ma la finale è proprio di tutto. Esattamente, di tutta la conclusione del canovaccio, della sì, storia, del progetto. Sì, qui è stato anche abbastanza importante, diciamo così, in fase di composizione, proprio l'apporto di tutti, distintamente, sì, perché effettivamente tutti quanti hanno messo del suo. Esattamente. Così, chi come idea, chi come, diciamo così, come parte proprio scritta in sé, ecco, e ha giocato molto così l'importanza di aver raggiunto un affiatamento tra di noi che un po' così nel protrarsi della composizione durante di questi mesi di composizione, poi così il fatto di suonare fuori assieme, insomma il tempo passato assieme ha fatto sì che avessimo raggiunto proprio un bel affiatamento. E io credo proprio che in questo ultimo brano si possa sentire, si proprio si pesa, si sente l'affiatamento totale. L'affiatamento è stato raggiunto, cioè, sì, anche con i concerti, anche, sì, infatti. E poi un'altra cosa che mi hanno detto, non so se posso dire, ma lo dico lo stesso: un finale molto da opera e quindi molto da teatro. Sì. E tu hai capito, Davide, assolutamente. Un finale molto da teatro che può essere riproposto a teatro. Sì. Io ti ho detto una cosa, poi non so, vediamo. Me l'hanno detto e io non ho dato proprio le linee giuste, però ho fatto un input, qualche volta anch'io faccio qualche input, sì. Ma è positivo, è una bella storia, una storia importante che si è sviluppata ed è finita con questo mostrarsi al pubblico, cioè la faccia l'abbiamo già vista, però la faccia vera anche musicalmente, la faccia con tutti i colori diversi, con tutti i vostri colori, voglio dire questo. Siamo arrivati in chiusura, ragazzi. Possiamo dire un momento i concerti, se avete qualche concerto? Sì, anche il sito e tutto, il titolo dell'album, eccetera. Angela, vai. Allora, il titolo dell'album è The Human Part 2. Parte 2, ricordiamo, parte 2. Sì. Il sito www.darkagesrock.com, che adesso è in lavorazione per riaggiornare la grafica appunto per il nuovo disco e tutto, e quindi sarà disponibile a breve con tutti i nostri concerti, le informazioni e tutto. Ma i prossimi quali sono? I prossimi, allora l'8 novembre saremo a Udine e il 9 novembre andiamo in Repubblica Ceca. Ah, andate all'estero? Andiamo fuori. Bene, poi, complimenti Davide e il band. Il 15 novembre saremo in zona Mantova e a dicembre a Brescia, poi abbiamo in programma di andare a Torino per il prossimo anno, quindi ci stiamo spostando comunque parecchio, sì, Bergamo, con i concerti. Gennaio, vabbè, insomma. Poi non me li ricordo perché io vivo settimana per settimana. Dimmi Davide. 7 dicembre a Travagliato, se ricordo bene, 17 gennaio a Palazzolo. Sì. A Brescia, sì. E dopo al Giardino, non mi ricordo. Sì, il Giardino è il 22 dicembre, al Giardino di Lugagnano, che è in provincia di Verona, è un locale... Che saluto, tra l'altro. Ecco. Sì, perché Cale è molto conosciuto. Mi manda sempre gli inviti. Sì. Agostino, cosa dici? Ricordiamo la formazione, visto che sì, c'è qua tutto quanto segnato. Allora spero di non sbagliare. Simone Calciolari alla chitarra. Eccomi qua. Eccoti qua. Poi c'è Angela Busato alle tastiere. Sì. E Carlo Busato alla batteria. Esatto. Poi abbiamo avuto al telefono Davide Cagnata, il grande frontman. Sì. Davide. E manca appunto il bassista Massimiliano Perboni, giusto? Che salutiamo, che sicuramente sarà all'ascolto o potrà ascoltarlo nel podcast, vero? Ma se sì. Possiamo rubare due vai, secondi. Vai, 10 secondi proprio. Ancora circa 2 minuti. Allora, niente, rubiamo 10 secondi proprio per i saluti che ci terremo a fare, perché Angela, dillo tu. Sì, beh, Gianluca l'abbiamo già salutato, certo. Poi c'è una radio che mi ha contattato proprio dall'Argentina, ha detto bene. Che avrebbe ascoltato questa trasmissione. Salutiamo i nostri amici dall'Argentina. Di Oxido Radio. E... Beh, un saluto anche da parte nostra. Certamente, siamo come no, colleghi. Siete colleghi, giusto? Appunto, siamo colleghi. Laura Marini di Brescia, che è una nostra amica e che una ci fan. Segue, una fan, sì. Bene, e Maurizio Fracchetti. Eh beh, sì. Sì, giusto. Il nostro mitico sesto occulto elemento della band. Le band c'è sempre il sesto elemento. Sì. Anche sì. I Rolling avevano il quinto elemento, voi avete il sesto elemento. No, il tecnico. Il tecnico che ci ha registrato entrambi i dischi. È un'autoproduzione vostra in ogni caso, o no? Sì. No, beh, siamo usciti sempre per la stessa casa discografica, la diciamo. E qui sempre un grazie per la rinnovata fiducia a Mirko Galeazzo. E già che ci siamo, giustamente ringraziamo anche Elisa Sant'Ambrogio per le grafiche e Giovanna Aprili per le fotografie. Perfettamente. Quindi vi manca nessuno? Il team di lavoro. Ecco, una cosa bellina, giusto così per chiudere: ci siamo talmente trovati bene con le persone che hanno collaborato con noi nel primo che nessuno. Abbiamo confermato nel secondo. Sono stati tutti toto. Confermati nel secondo. Toto. Perfetto. È bellissimo, una cosa meravigliosa. Bene, abbiamo concluso, Maurizio. Io do l'appuntamento a domani sera, ovviamente. Sì, salutiamo ancora Davide, che è stato molto gentile con noi e ha resistito fino adesso, praticamente. No. In bocca al lupo, Davide, per la tua salute. Grazie mille. E ti vogliamo qua con la band quando sarà il momento giusto. Senz'altro. Ciao Davide. Grazie. Ciao Davide. Allora, come da tradizione, per intero ascoltiamo l'ultimo canzone, pezzo che si intitola Moral. Maurizio, noi l'appuntamento da domani sera, sì, con tutt'altro genere. Si parlerà di musical. Avremo la compagnia Tipo Come che presenterà Al di là del vetro. Voi sapete che come emittente noi siamo media partner di questa rassegna musical, cioè Sognando Broadway. Il sottoscritto è in giuria e quindi insomma domani sera avremo questa compagnia che ci presenterà in anteprima insomma qualche aneddoto o qualcosa inerente a questo musical che si intitola Al di là del vetro. Maurizio, buonanotte, buon proseguimento anche a te, o te ne vai a casa a vedere... No, lasciamo perdere il risultato sportivo, grazie ai Dark Age, e sentiamo questo ultimo pezzo che si parla di musica e non di sport stasera. Musica, ciao! Vi aspettiamo con gli strumenti. Ok, senz'altro. Ciao ragazzi! Ciao, grazie. Hard, no matter. sand. Kill it. Kill the feeling of love. They sacrifice their lives when it comes from above. I know. Stand.